Benissimo, allora siamo a Crevalcore, che non è esattamente il mio amato Polesine, un pochino vagamente può assomigliare, ma sarà ancora più simile per la serata di mercoledì 30 giugno in occasione di Dizionario Balasso. Con noi Natalino Balasso da Porto Tolle, ben ritrovato, buongiorno Natalino. Ben ritrovati voi, Radio Fusico. Ascolta, tu sai della mia grande passione polesana, per cui questo entusiasmo è ben giustificato. Io lo so, ma sai che non parleremo di Polesine, ma bensì delle parole, del lessico che tutti usiamo e che purtroppo, insomma, ci portano spesso in strade senza uscita. Lemmi. Ho guardato per bene per non fare figuracce, l'etimo, il significato dal greco antico, titoli. Però può avere un senso, no? Perché per noi le parole sono etichette ormai, e quindi nell'era del tag la parola si porta dietro un significato, diciamo, codificato, che non ha speranza di essere smantellato. Ma i significati vanno smantellati, primo perché la gente non possiede un numero sufficiente di parole per esprimere quello che sente, soprattutto in un'epoca tecnologica così avanzata. E secondo perché spesso usiamo parole che abbiamo trasformato in maniera radicale, insomma, ecco. Sì, assolutamente. Alcuni esempi, non solo di parole, ma di frasi vere e proprie, tra cui produttività. Più è alta la tua, più ci guadagnano gli altri. Vedere un film western, se togliamo i colpi d'arma da fuoco, diventa un documentario sulle catene montuose del Nord America. E così via, insomma. Ma non sono semplici sketch o battute. Se ci pensiamo, anche nella nostra quotidianità, a parte la necessità di avere più termini per avere un eloquio fluente, ma come riescono a ingannarci per quanto riguarda la traduzione o l'etimo di certe parole, Natalino? Beh certo, basta che pensiamo ad esempio a una cosa che oggi va di moda a dire, e cioè la transizione ecologica. Allora, quando tu dici transizione ecologica, pensi ovviamente che il mondo che inquinante e inquinato avrà una transizione, andrà verso un mondo più pulito, ma le cose non stanno così. La transizione è lessicale e in realtà si va verso leggi diverse, verso, come è successo spesso in passato, innalzamento dell'asticella. Se io prima inquinavo a 7, basta dire che adesso comincio a inquinare a 10, sembra che inquini meno, ma in realtà ho cambiato io, ho fatto una transizione lessicale. E in effetti mi riconduce anche al leader, è l'individuo scelto da un gruppo perché dica agli altri cosa fare anche se non ne ha la minima idea, insomma. È così. Anche le regole, che sono a vantaggio di chi le fa e di solito a svantaggio di chi le deve rispettare. Questi sono un po' i temi, i motivi di discussione per la serata di mercoledì 30 giugno alle ore 21, il Dizionario Balasso. Testo e regia di Natalino Balasso. Siamo al parco di Villa Ronchi, il comune è Crevalcore, la località è Bolognina di Crevalcore. Hai studiato, Natalino, hai scritto per meglio dire, ma anche studiato, perché qui l'etimo delle parole è importante, durante il periodo di pandemia, durante la chiusura, questa stesura di testo? No, in verità questo spettacolo doveva partire ben prima del... Ok. Del Covid, e poi non è riuscito a partire perché hanno chiuso i teatri. Progetti futuri? Beh, adesso fai questo. Adesso faccio questo, ma questo lo farò a lungo, quindi è un mio monologo, di solito i miei monologhi li tengo in repertorio. E quest'autunno partiremo con un progetto su Ruzzante col Teatro Stabile di Bolzano. Intanto ribadiamo il motivo di incontro, la rassegna Tre Teatri per Te, edizione 2021, Dizionario Balasso, mercoledì 30 giugno, comune di Crevalcore, località Bolognina, al parco di Villa Ronchi. Io ti ringrazio tantissimo per queste due chiacchiere di anticipazione dell'evento che abbiamo portato ai microfoni di Radio Città Fugico. E ti do appuntamento a un altro spettacolo, così, perché è sempre un piacere parlare con te. Grazie. Grazie, ciao Fugichi. Ciao caro, ciao. Ciao.